Meccanica quantistica, relatività, fisica statistica, elettromagnetismo. Come sono state fatte queste scoperte? E poi tutte le curiosità sulla vita di Niels Bohr, di Newton o di Marie Curie. Bisognerebbe intervistare i fisici del passato. Ma queste interviste sono impossibili. No, non esistono interviste impossibili per Radio Moca. Intervista impossibile a Max Planck. Voci di Franco Bagnoli e Mirko Duradoni. Buongiorno professor Planck, grazie di essere venuto a Radio Moca. Grazie a voi di aver pensato a me. Non sono certo una star della fisica. Ma che dice, professore? Lei ha dato inizio alla rivoluzione della fisica quantistica. Beh, Segré mi ha definito un rivoluzionario controvoglia. Ebbene, credo che avesse ragione. Sono sempre stato un conservatore, sia di idee che di spirito, con un carattere schivo. Eppure, sia io che la mia famiglia siamo stati, per così dire, costretti a mettersi in luce. Io sono nato nel 1858 a Gottinga, in una famiglia protestante dedito allo studio della legge. Quanto di più conservatore si possa pensare? Ma è vero che lei in realtà si chiama Karl Marx? Io mi chiamo, secondo il mio certificato di battesimo, Marx Karl Ernst Ludwig Planck. Ma mi hanno sempre chiamato Max. Credo che quel Marx sia stato un errore di trascrizione. Forse il prete era comunista e ha fatto un lapsus freudiano, compilando il certificato, ecco. E come mai si è interessato alla fisica? Grazie al mio insegnante di matematica del liceo, Hermann Müller, che mi introdusse allo studio dell'astronomia e della meccanica. Tuttavia, quando ero già all'Università di Monaco, il mio professore di fisica, Philipp von Jolly, cercò di dissuadermi a continuare quella carriera, dicendomi che ormai in quel campo tutto era già stato scoperto e rimanevano da riempire solo pochi buchi, una frase spesso attribuita a Lord Kelvin. Io risposi che non volevo scoprire nulla di nuovo, solo capire come funzionava il mondo. Ma credo che il professor von Jolly volesse solo mettermi alla prova. Nonostante quello che si dice, tutti i fisici della fine del 1800, e Kelvin per primo, sapevano che c'erano dei grandi misteri irrisolti. E quali erano? Proprio quelli che avrebbero dato origine alla fisica moderna. Il fallimento dell'esperimento di Michelson e Morley, ovvero la costanza della velocità della luce, e il fallimento del teorema di equipartizione dell'energia, che si riflette nel fatto che i calori specifici dei gas non tornavano con il modello meccanico. E poi lo spettro del corpo nero. Il famoso corpo nero. Ce ne può parlare? Il problema era quello di ricavare la quantità di energia che un corpo nero, riscaldato ad una certa temperatura, emetteva a una certa lunghezza d'onda. Ero stato incaricato da una ditta che produceva lampadine perché studiassi il sistema di massimizzare la luce prodotta. Si conosceva la forma dello spettro per via sperimentale, ma non si riusciva a ottenerla per via teorica. E come è fatta la curva sperimentale? È una curva a campana, un po' storta. La curva va a zero sia per le lunghezze d'onda molto piccole che per le lunghezze d'onda grandi, e ha un massimo la cui posizione dipende dalla temperatura. Lo spettro della radiazione solare è molto simile a quello di un corpo nero, a parte per l'assorbimento da parte dell'atmosfera. E perché nero? Semplicemente per far sì che lo spettro non sia influenzato dal colore del corpo. Un corpo colorato, diciamo rosso, riflette quella parte della radiazione incidente che corrisponde alla lunghezza d'onda del rosso. Un corpo nero invece assorbe tutta la radiazione incidente e quindi emette delle radiazioni solo in funzione della sua temperatura. Una buona approssimazione per un corpo nero è una cavità con un piccolo foro. Tutta la radiazione che entra sarà assorbita dalle ripetute collisioni con le pareti. E poi? Se la cavità è scavata in un materiale conduttore, allora sappiamo dalle equazioni di Maxwell che nella cavità ci possono stare solo delle onde stazionarie, come se fossero le oscillazioni di una corda elastica con estremi fissi. La lunghezza d'onda più lunga è pari al doppio dell'ampiezza della cavità, ma non c'è un limite inferiore alle lunghezze d'onda più piccole. Ogni lunghezza d'onda ha un'energia associata. Ora, classicamente questa energia può essere di qualsiasi intensità e il teorema di equipartizione dice che l'energia si dovrebbe distribuire ugualmente tra tutti i modi di oscillazione. Quindi, a qualsiasi temperatura, una cavità dovrebbe emettere anche raggi X e gamma, cosa che non succede. E come ha risolto il problema? Anche se lì per lì non me ne sono reso conto, ho supposto che l'energia fosse quantizzata, con il quanto di energia che diventava sempre più grande con il diminuire della lunghezza d'onda. In questa maniera, per una certa energia totale, non si possono eccitare le frequenze troppo alte, ovvero le lunghezze d'onda troppo corte. E tutto torna. È stato un atto matematico di disperazione. Avevo già lottato 6 anni con il problema del corpo nero. Sapevo che il problema era fondamentale e ne conoscevo la legge empirica. Una spiegazione teorica doveva trovarsi a qualunque costo, salvo l'inviolabilità delle 2 leggi della termodinamica. Ma poi si è convinto della realtà dei quanti? Nonostante il lavoro di Einstein del 1905 sull'effetto fotoelettrico, mi sono ostinato per molto tempo a cercare di riconciliare la mia scoperta con la fisica classica, prima di ammettere che quello che consideravo un artificio matematico potesse avere anche un senso fisico. Si immagini che nel 1914, quando Einstein era stato raccomandato per l'adesione all'Accademia Prussiana, scrissi nella raccomandazione: può a volte mancare il bersaglio nelle sue speculazioni, come ad esempio nella sua ipotesi dei quanti di luce. Lei però era molto favorevolmente impressionato da Einstein. Posso dire che sono stato il primo a riconoscere l'importanza della sua teoria della relatività e a sostenerla quando non era accettata da nessuno. Lei è stato anche il portavoce della fisica tedesca. È stato terribile. Il nazismo si stava affermando e io, che sono pur sempre un conservatore, non l'ho mai digerito. Ma bisognava preservare gli scienziati dalle persecuzioni. Andai anche a parlare con il Führer per cercare di fargli abbandonare le sue peggiori aberrazioni, ma fui messo alla porta. La sua vita privata non è stata facile. Diciamo pure che è stata una tragedia dopo l'altra. La mia prima moglie, Marie Merck, morì nel 1909 di tubercolosi. La mia figlia, prima figlia, Grete, morì di parto nel 1917. E sua sorella, che aveva sposato il vedovo, subì lo stesso destino 2 anni dopo. Il mio primogenito, Karl, morì a Verdun. E infine il mio carissimo secondogenito, Eric, fu fucilato dai nazisti nel 1945 per aver tentato di assassinare Hitler. Lei è conosciuto anche per l'equazione di Fokker-Planck. Ce ne vuole parlare? È stato essenzialmente il lavoro di Adrian Fokker, un mio dottorando olandese, anche se è nato in Indonesia, che a quei tempi era appunto olandese. Era appassionato, come me, alla musica. Ha anche inventato un tipo di organo. Ed era anche il cugino di Anthony Fokker, l'inventore degli aerei tedeschi della Prima Guerra Mondiale. Adrian fu quello che aiutò, insieme a Dirk Kostere e Otto Hahn, a organizzare la fuga di Lise Meitner dall'Austria all'Olanda. Nel 1913, per il suo lavoro di dottorato, sviluppammo l'equazione che adesso si chiama di Fokker-Planck, che fu poi riscoperta anche da Kolmogorov nel 1931. Ovviamente, come quasi sempre, la prima intuizione la ebbe Einstein nel 1905, ma noi la generalizzammo. L'idea è semplice. Prendiamo un processo governato in parte da un termine casuale, per esempio il moto di una particella di polline in acqua, soggetta a qualche forza esterna, ma anche all'agitazione termica delle molecole circostanti. La traiettoria sarà irregolare, il cosiddetto moto browniano. Possiamo pensare di studiare tante copie del sistema pensando, per esempio, di sovrapporre in qualche maniera la posizione delle copie delle particelle. Se iniziano tutte da una stessa posizione, è come osservare una macchia di inchiostro che segue la corrente dell'acqua circostante e, contemporaneamente, si espande. Possiamo quindi pensare di descrivere la probabilità di trovare la particella in una determinata posizione a un certo tempo, che è data dalla probabilità di trovare la particella in un'altra posizione al tempo precedente, moltiplicata per la probabilità di saltare dalla posizione precedente a quella attuale. Bisogna poi sommare su tutte le possibilità e si ottiene quella che oggi voi chiamate equazione di Kolmogorov in avanti nel tempo. È un'equazione integro-differenziale difficile da risolvere. Se però i salti sono locali, ovvero la particella non cambia di troppo la sua posizione, il che nell'esempio del grano di polline implica che il moto dell'acqua circostante non sia troppo turbolento, allora si può manipolare l'equazione e ottenere un'equazione alle derivate parziali, che è più facile da maneggiare. L'equazione di diffusione ottenuta da Einstein nel 1905 è proprio il caso più semplice della nostra equazione di Fokker-Planck. Lei è sempre molto chiaro. Aveva ragione Lise Meitner a dire che le sue lezioni erano le migliori che avesse mai sentito. La ringrazio di nuovo per il tempo che ha voluto dedicarci. Sono io che la ringrazio. Era molto tempo che non parlavo con nessuno. Avete ascoltato una puntata delle Interviste Impossibili ai Fisici del Passato, una rubrica della trasmissione Radio Moca di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini, in onda su Nova Radio. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Centro per lo Studio di Dinamiche Complesse dell'Università di Firenze. I testi sono stati pubblicati da Apice Libri e sono accessibili su caffescienza.it.